Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ho ritenuto di lasciare il Partito Democratico proprio perché non mi riconosco più in quel partito in cui ero entrato e non ne condivido più né il merito né il metodo. E ho voluto aspettare l'approvazione della legge elettorale proprio per il rispetto del mio ruolo istituzionale, che mi imponeva di mettere da parte quelli che erano i miei convincimenti, i miei sentimenti, per rispettare il mio ruolo. In questo modo, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, il presidente del Senato Grasso ha spiegato con toni, anche parole gravi, insomma, il suo addio ieri al Partito Democratico, subito dopo l'approvazione definitiva della legge elettorale. Ma ne parleremo, ne torneremo a parlare di politica italiana, però sicuramente in situazioni più tese, più gravi, si trova la Spagna in questo momento, perché oggi, dopo mesi e settimane di tensioni, di minacce reciproche, di tentativi di dialogo, c'è stato lo strappo, il voto storico l'hanno definito in Catalogna, cioè la Catalogna ha votato per la propria indipendenza. Però c'è stata subito la reazione di Madrid, del governo centrale, con il primo ministro Rajoy, che ha deciso di destituire il presidente catalano Puigdemont, il Parlamento catalano, e quindi di indire nuove elezioni per il prossimo 21 dicembre. Quindi sono veramente ore di grande tensione, perché ci sono tante manifestazioni, prima di gioia in piazza, nelle strade di Barcellona, delle altre città catalane. Adesso bisogna vedere un po' che direzione prende questa situazione, con tutta l'Unione Europea che si è schierata tra l'altro a favore di Madrid. Quindi tante cose molto importanti di cui parlare questa sera. Per i vostri commenti, lo sapete, liberamente sulla pagina Facebook di Effetto Notte, oppure potete scrivere SMS e WhatsApp al numero 349 238 6666. Lo ripeto, 349 238 6666. Iniziamo quindi, come sempre, dalla sintesi della giornata. La crisi spagnola: la Catalogna proclama l'indipendenza dalla Spagna, migliaia di persone festeggiano in piazza, Rajoy parla di atto criminale, destituisce il presidente catalano e indice elezioni per il prossimo 21 dicembre. Banca Italia, governo conferma il governatore Visco, ma i ministri vicini a Renzi disertano il Consiglio dei Ministri. L'addio di Grasso al PD, il presidente del Senato spiega, la fiducia sulla legge elettorale è stata una violenza, non mi riconosco più nel PD. Incendi in Piemonte, oltre 2000 ettari di bosco bruciati, l'emergenza continua ed è record per livelli delle polveri sottili. La regione chiede lo stato di calamità. Violenza sessuale a Ravenna, una ragazza di 18enne ubriaca, violentata e filmata con lo smartphone, arrestati due ventenni, uno ride al video mentre la violenta. La polemica sui minori accompagnati a scuola, la ministra dell'istruzione Fedeli annuncia di aver posto l'argomento all'attenzione del Consiglio dei Ministri, se ne occuperà il governo. Partiamo quindi dalla Spagna, dagli sviluppi di queste ultime ore nella crisi che contrappone Barcellona e Madrid. La risoluzione della dichiarazione dels i les representants del Parlament queda aprovada per 70 vots a favor, 10 en contra i 2 vots en blanc. E questa è stata la dichiarazione d'indipendenza del Parlamento catalano. Alla fine, quindi, dopo settimane di tensione, c'è stata questa rottura finale col Parlamento di Barcellona, appunto, che ha dichiarato l'indipendenza da Madrid, dando via al processo costituente della Repubblica. Nelle stesse ore, però, il Senato spagnolo ha attivato l'articolo 155 della Costituzione, che commissaria la regione, quindi sospende l'autonomia, e ha deciso appunto di annunciare, di destituire Puigdemont e di annunciare elezioni in Catalogna per il prossimo 21 dicembre. E l'Unione Europea e anche gli Stati Uniti si sono schierati con Madrid. Sentiamo Rajoy. He disuelto el Parlamento de Cataluña y que el próximo 21 de diciembre se celebrarán elecciones autonómicas en esa comunidad autonoma. Chiarissimo, anche se in spagnolo. Tra poco quindi ci sarà spazio per un'analisi di quello che sta accadendo, di quello che potrebbe accadere, e avremo anche una testimonianza collegandoci direttamente con Barcellona. Passiamo adesso alle vicende italiane, con la riconferma del governatore Visco alla guida di Banca Italia, seduta lampo del Consiglio dei Ministri con l'assenza significativa dei renziani. Una delibera approvata all'unanimità in un solo quarto d'ora, poi a stretto giro il decreto del Presidente della Repubblica Mattarella. Si chiude così la vicenda della nomina del nuovo governatore, anche se non si chiudono le polemiche. Ha subito fatto discutere infatti l'assenza dalla riunione di oggi a Palazzo Chigi del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Boschi e del ministro Delrio per motivi di salute e dei titolari dell'Agricoltura Martina e dello Sport Lotti per impegni, i ministri più fedeli a Renzi, il quale anche oggi ribadisce di non condividere la scelta, ma poi assicura: non ha incrinato il mio rapporto con Gentiloni, ciascuno rimane delle proprie idee rispetto alla scelta, per noi la discussione termina qui, buon lavoro al governatore Visco. Anche dalle opposizioni si levano le voci contrarie al reincarico, quelle del Movimento 5 Stelle, di Forza Italia e di Fratelli d'Italia. Da MDP auguri di pronta guarigione a Boschi, ma si sottolinea l'influenza non risolve il conflitto di interessi. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Dunque, fibrillazioni, divisioni nel PD, non solo in relazione alla nomina del numero uno della Banca d'Italia. Oggi, dopo l'ingresso del gruppo misto, avete sentito, è tornato a parlare il presidente del Senato Grasso, che definisce la fiducia posta sulla legge elettorale una violenza e dice di non riconoscersi più nel PD e per questo lo ha lasciato. E tra poco ritorniamo su questi argomenti anche di politica interna. E a proposito di politica, anche la polemica di cui ieri abbiamo parlato ampiamente, anche attraverso i vostri messaggi, con un ospite, la polemica sull'obbligo di accompagnare i minori di 14 anni a scuola, secondo una norma che è stata, come possiamo dire, rinverdita da una sentenza della Cassazione. Se ne è parlato nel Consiglio dei Ministri oggi e il PD si prepara a presentare una proposta di legge per la prossima settimana. L'unico modo per permettere ai propri figli sotto i 14 anni di tornare a casa da soli da scuola è cambiare la legge, così la ministra dell'istruzione Valeria Fedeli. Esiste la legge dagli anni 90 che in realtà mette in capo alla scuola e agli adulti la responsabilità per i minorenni di essere accompagnati e anche accolti quando finiscono la scuola. Al momento esiste solo un patto scuola-famiglia che però non basta. Se succede qualcosa, la responsabilità è di presidi e docenti. Come ha evidenziato una recente sentenza della Cassazione, il PD presenterà quindi un emendamento per permettere ai genitori di assumersi la responsabilità dei ragazzi una volta usciti da scuola, ci spiega la deputata PD Simona Malpezzi. Proprio perché è interpretativa, abbiamo provato a formulare una norma che garantisca ai genitori di poter scegliere autonomamente il livello di autonomia da dare ai propri figli e salvaguardare le scuole da una responsabilità. La norma è pronta, manca la formula che ne faciliti l'immediatezza. Livia Zancanella, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso i dati sul lavoro con il focus dell'Istat sui giovani. Per molti giovani italiani la raccomandazione resta il canale principale per trovare un lavoro. In 4 su 10 lo hanno ottenuto grazie alle segnalazioni di amici, parenti o conoscenti. A rivelarlo è l'ultimo focus dell'Istat sui giovani nel mercato del lavoro. Secondo il rapporto, fra i giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni, che in tutto sono oltre 12 milioni e 600 mila, uno su quattro ha un lavoro a termine e sempre uno su quattro lavora ad orario ridotto, nella maggioranza dei casi per l'impossibilità di trovare un'occupazione a tempo pieno. La quota di occupati in lavori atipici è del 51% per i laureati e del 64% per i diplomati. I dati confermano che il tasso di occupazione cresce all'aumentare del livello di istruzione. 3 giovani su 5, infine, dichiarano di non essere disposti a cambiare città per trovare un lavoro. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E c'è l'emergenza incendi in Piemonte, dove è stato chiesto lo stato di calamità. Il presidente della regione Sergio Chiamparino ha inviato al premier Gentiloni e al capo della protezione civile Borrelli la richiesta per lo stato di emergenza in seguito agli incendi che stanno mettendo in ginocchio diverse aree del Piemonte, in particolare Val di Susa, Pinerolese, Canavese e le valli Varaita e Stura di Demonte. Dal 10 ottobre, quando è iniziata l'emergenza ed è stato dichiarato lo stato di massima pericolosità, si sono registrati 128 incendi boschivi che hanno distrutto oltre 2.000 ettari di superficie. Per evitare interferenze nelle operazioni di soccorso è stata sospesa la caccia in Val Susa e Val Sangone, mentre un centinaio di coltivatori della Coldiretti hanno deciso di mobilitarsi con i trattori per trasportare l'acqua nelle zone colpite dalle fiamme. Intanto a Torino i valori di PM10, le polveri sottili inquinanti, sono saliti alle stelle, rendendo a tratti l'aria irrespirabile. Nessun blocco del traffico al momento, con la giunta Appendino che ha invitato i comuni limitrofi a sospendere l'ordinanza antismog, così da non limitare gli spostamenti dei residenti. Marco Panzarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino. E arriviamo alla cronaca nerissima, una violenza sessuale a Ravenna su una 18enne. Il fatto è avvenuto a inizio mese, ma oggi sono stati arrestati un senegalese di 27 anni e un romeno di 28 che sostengono che il rapporto fosse consensuale, ma gli inquirenti non gli credono. L'hanno agganciata in un locale, portata in una casa mentre era ubriaca, infilata sotto una doccia fredda per svegliarla, poi violentarla riprendendo tutto con uno smartphone. Mentre uno dei due la stupra, si rivolge al video sorridendo compiaciuto. Calderoli della Lega chiede che venga subito discusso in aula il disegno di legge sulla castrazione. Ed è attesa in serata la sentenza, deve arrivare verso le 20, ma insomma ancora non si ha notizia, la sentenza su Valentino Talluto, l'uomo accusato di aver contagiato con l'HIV almeno una trentina di partner. Nei suoi confronti la PM Elena Neri ha chiesto la condanna all'ergastolo per le accuse di epidemia e lesioni, ma bisogna vedere qual è la sentenza. A Talluto vengono in realtà attribuiti 57 episodi legati ad altrettante persone, si fa riferimento appunto a una trentina di donne che l'uomo avrebbe infettato con rapporti sessuali, e tra le vittime ci sono infermieri, babysitter, commesse, tutte tra i 20 e i 30 anni. A loro si aggiungono tre uomini infettati da donne diventate sieropositive a causa del sesso con lui e un bambino nato da un ex partner oggi sieropositiva. Il piccolo ha contratto il virus dalla madre durante il parto e ora affetto da HIV e encefalopatia. A questi si sommano una ventina di donne scampate all'infezione, tra le quali una che era incinta al momento dei rapporti sessuali con Talluto. Pensate che strage. Per quanto riguarda gli scioperi di oggi, è stata una giornata di scioperi, i disagi però sono stati piuttosto limitati. Metro attive a Roma e a Milano con meno corse, chiuse invece a Torino. E poi c'è il calcio, domani gli anticipi dell'undicesima giornata in Serie A alle 18 Milan-Juventus, e sentiamo il tecnico bianconero Allegri. Il sostituto di Bonucci, no, lo so perché Bonucci già nel Milan, quindi diciamo dispiace non averlo contro domani, perché alla fine in queste grandi partite ci devono essere sempre tutti. Domani sera poi Roma-Bologna, il Napoli capolista gioca alle 15 di domenica in casa contro il Sassuolo. Per chiudere vi ricordo una cosa, diciamo che a molti non piace, che molti non gradiscono, torna l'ora solare nel fine settimana. Si torna indietro di 60 minuti, il cambio avverrà nella notte tra sabato e domenica, quindi tra domani e dopodomani, nella notte tra il 28, sabato 28 e domenica 29. Le lancette devono essere portate indietro di un'ora alle 3, dalle 3 alle 2, ma ovviamente prima di andare a letto lo fa se non fa le ore piccole. Ci consentirà di dormire un'ora di più e questo è consolatorio, però come piace a pochi, in effetti il buio arriverà prima, no? Durante la giornata, il sole tramonterà decisamente prima. E va bene, ricordatelo, poi ve lo ricordo magari ancora a fine puntata, tanto siamo insieme sino alle 22, tra poco la viabilità e poi cominciamo con è arrivata proprio in questo momento la sentenza per l'uomo di cui vi ho appena parlato, che ha infettato almeno una trentina di donne più le altre 50 a rischio, un bambino che è nato da un rapporto sessuale. Valentino Talluto, il trentenne accusato di aver contagiato appunto tutte queste donne, è stato condannato a 24 anni di carcere. La richiesta era stata di ergastolo, l'hanno deciso i giudici della terza corte di assise di Roma dopo oltre 10 ore di camera di consiglio. Questa è la sentenza, tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Moltissime le notizie, anche l'ultima sulla quale vi ho aggiornate. Roberto Giordano sempre con voi. Ricordatevi tutte le sere insieme dalle 21 alle 22 per non perdere nessuna delle notizie più importanti in primo piano, in modo che un giorno non potrete dire io non lo sapevo. Per i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale tra l'altro potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure il numero per WhatsApp ed SMS che è 349-238-6666. Per esempio sull'indipendenza catalana, questo ascoltatore Carlo dice: Roberta, stai tranquilla che la dichiarazione di indipendenza durerà un giorno, il governo centrale attiva l'articolo 155, quello della sospensione dell'autonomia, e dice: arriva la guardia civile, la polizia, viene arrestato Puigdemont e il company perché sono fuori legge. Ma tra poco ne parleremo e capiremo appunto quali sono le conseguenze. Già comunque Rajoy, il primo ministro spagnolo, ha annunciato poco fa che destituisce per l'appunto il presidente catalano, il Parlamento catalano indice nuove elezioni per il prossimo 21 dicembre. Ma adesso invece tra pochissimo ci concentreremo sulla politica nostrana e vi ricordo, se non avete acceso puntualmente, anche le notizie più importanti. Per l'appunto la crisi spagnola di cui parleremo e poi per quanto riguarda Banca Italia il governo conferma il governatore Visco ma i ministri vicino a Renzi disertano il Consiglio dei Ministri. Ne parleremo tra pochissimo, così anche delle motivazioni che il Presidente del Senato Grasso ha dato per il suo addio al PD. Gli incendi in Piemonte, oltre 2.000 ettari di bosco bruciati, l'emergenza continua ed è il record per i livelli di polveri sottili in Piemonte, la regione chiede lo stato di calamità. Violenza sessuale a Ravenna, una ragazza 18enne ubriaca violenta e filmata con lo smartphone, arrestati due ventenni, uno che ride mentre la violenta. E poi vi ho aggiornato su questa sentenza che era attesa per questa sera ed è arrivata pochi istanti fa, dell'uomo sieropositivo che contagiò oltre una trentina di donne e un bambino, di queste una di queste che era rimasta incinta, un ex partner, è malato a sua volta gravemente. Valentino Talluto, quest'uomo sieropositivo, è stato condannato, la sentenza è arrivata poco fa, a 24 anni di carcere, anche se per lui era stato chiesto l'ergastolo. Dicevo quindi la politica nostrana che ieri ha vissuto un giorno di particolare intensità, abbiamo detto, no? Perché un giorno solo è arrivata la legge elettorale, è stato scelto il nome del governatore di Banca Italia e il presidente del Senato Grasso ha lasciato, ha detto il suo addio al Partito Democratico. Allora, saluto la nostra Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore, cara Barbara. Buonasera a tutti. Quindi oggi Ignazio Visco è stato confermato definitivamente per altri 6 anni perché il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato il decreto di nomina del governatore. In mattinata era giunta la designazione di Visco da parte del Consiglio dei Ministri in una riunione, però si è fatta notare, era molto spiccata, l'assenza dei ministri renziani, quindi Graziano Del Rio, Beatrice Lorenzin, Maurizio Martina, Luca Lotti e anche la sottosegretaria Boschi. Viene in mente il film di Moretti, no? Mi notano di più se ci sono o se non ci sono. Si sono notati subito che non c'erano. Quindi significa che il contrasto del PD o dei renziani, insomma, diventa molto forte all'interno del governo, con Gentiloni, anche con Mattarella, dopo la famosa mozione del PD contro Visco. Ma direi che è evidente che questa assenza, o come l'ha chiamata qualcuno, disersione del Consiglio dei Ministri è appunto un silenzio molto eloquente, perché il Consiglio ha approvato, per quelli che erano i presenti, all'unanimità l'indicazione appunto di Ignazio Visco governatore di Banca Italia. Ora è evidente che in quel contesto si sarebbe, come dire, i ministri di osservanza renziana sarebbero stati o costretti a come dire, manifestare un dissenso, oppure a decidere insieme al resto del Consiglio dei Ministri, ma prendendo una posizione diversa da quella che era stata espressa anche nelle ultime ore dallo stesso Renzi. E quindi diciamo, hanno giustificato la loro assenza con malattie e precedenti impegni e così è andata, insomma. È evidente che questo è un ulteriore passaggio verso una campagna elettorale che si annuncia molto, molto dura in cui il governo ovviamente avrà molte difficoltà, anche perché ricordiamo sempre che dalla prossima settimana comincia al Senato la sessione di bilancio e quindi è immaginabile che i renziani vogliano far sentire la loro voce, nel senso che sarà difficile, abbiamo già visto, no, gli interventi di Martina sulle pensioni, sarà molto difficile in questa fase far prevalere da parte di Gentiloni e del Ministro dell'Economia Piercarlo Padoan le ragioni, come dire, dei conti pubblici, della tenuta dei conti rispetto a quelle che sono ragioni invece molto più politiche e legate alla campagna elettorale, perché è notorio che subito dopo la legge finanziaria, Gentiloni l'ha già praticamente detto, salirà al colle per rimettere il suo mandato e quindi il capo dello Stato Sergio Mattarella scioglierà le Camere, portandoci al voto presumibilmente o il 5 o l'11 marzo. Queste sono le due date che vengono indicate in rosso sul calendario al momento, perché si immagina che lo scioglimento avvenga prima di Natale comunque. Senti Barbara, c'è Crutille che scrive: Roberta, penso che nel giro di qualche settimana arriverà un Paolo stai sereno. Ricordando Letta, Renzi con Letta. Ma allora, se vogliamo prendere questo messaggio, il Paolo stai sereno è già arrivato. Il Paolo stai sereno, io direi che è la mozione del PD contro Ignazio Visco che è stata presentata nei giorni scorsi. È ovvio che siamo in una fase di fine legislatura, quindi non ci può essere un successore in questo momento a Paolo Gentiloni. Barbara, sentiamo Renzi che cosa ha detto su Banca Italia oggi dopo la conferma di Visco. Io sono uno di quelli che non le manda a dire. Quando è da dire qualcosa lo dice, lo sapete, l'ho detto, l'ho motivato, l'ho argomentato, la scelta è stata fatta in modo diverso da quello che io avrei auspicato, ma oggi il rispetto istituzionale prevede che si faccia l'augurio di buon lavoro al governatore Visco e si consideri chiusa qui la partita della conferma del governatore. Allora, per completare un po' il quadro, il Movimento 5 Stelle ha detto, parla di un governatore totalmente delegittimato e fiaccato dalla guerra a bassa intensità che Renzi e i suoi hanno deciso di scatenare. Massimo D'Alema dice: Renzi in modo rozzo e maldestro ha obbligato a confermare Visco. Matteo Salvini, leader della Lega, parla della conferma di Visco, dice che a suo parere non ha vigilato come quindi di un colpo di coda dei poteri forti. Brunetta di Forza Italia, che è anche vicepresidente della commissione d'inchiesta sulle banche, evoca il rapporto, dice, ormai perverso fra il PD e di Renzi e il governo Gentiloni. Senti, a proposito dei problemi interni del PD, l'addio di Grasso, no? Al Partito Democratico, ieri subito dopo l'approvazione del Rosatellum bis al Senato. Sentiamo questo passaggio di Grasso. Il fatto che il Presidente del Senato, che rappresenta tutta quanta l'Assemblea, vede passare una legge elettorale che è stata redatta in un'altra Camera e che ha deciso anche per il Senato senza poter nemmeno discutere o cambiare una virgola, beh, questo io penso che è una sorta di sofferenza e di violenza che ho sentito di rappresentare io personalmente. Ho ritenuto di lasciare il Partito Democratico proprio perché non mi riconosco più in quel partito in cui ero entrato e non ne condivido più né il merito né il metodo. E ho voluto aspettare l'approvazione della legge elettorale proprio per il rispetto del mio ruolo istituzionale, che mi imponeva di mettere da parte quelli che erano i miei convincimenti, i miei sentimenti, per rispettare il mio ruolo. Insomma, Barbara Femmeri, parole molto dure e anche una perdita abbastanza consistente per il PD, no? Quella di Grasso, il Presidente del Senato. Sì, certamente una perdita importante, anche perché non più tardi di qualche mese fa, ricordiamo che tra le ipotesi c'era la candidatura del Presidente del Senato di Grasso alla presidenza della Regione Sicilia da parte del Partito Democratico, poi Grasso rifiutò quell'invito. I rapporti tra il Partito Democratico e Grasso direi che si sono deteriorati nel corso del tempo, ricordiamo appunto i contrasti che ci furono già ai tempi della riforma costituzionale, ma più di recente sullo stesso Rosatellum Grasso aveva espresso delle perplessità quando il provvedimento era ancora alla Camera e a cui rispose insomma il Presidente del Partito Democratico Orfini, dicendogli in sostanza che stava facendo prendendo delle posizioni populiste, insomma, quindi il rapporto si era deteriorato. Ora c'è da dire che però la decisione di Grasso arrivata anche qui, cioè bisogna sempre inserire le scelte in un contesto, perché appunto ripeto, i contrasti sulla riforma costituzionale e anche sullo stesso Italicum, i contrasti erano stati forti, però Grasso allora questo passo non lo fece, quindi c'è chi dice lo fa perché in realtà Grasso in questo modo prende le distanze dal Partito Democratico perché è visto come il possibile leader di MDP, Movimento insomma, Democratici diciamo Progressisti. Ma sì, perché siamo in una fase, appunto, ripeto, di fine legislatura, a pochi mesi dalle elezioni politiche, è inevitabile che chi è protagonista della politica in questo momento si schieri e Grasso si sta schierando. Molto abbastanza chiaramente, diciamo. Senti, ricordando brevemente le ascoltatrici e ascoltatori della legge elettorale che ieri Rosatellum 2.0, Rosatellum bis è passato definitivamente, è legge, ricordo che è un sistema misto, maggioritario e proporzionale, molto più proporzionale che maggioritario, perché per un terzo circa deputati e senatori vengono eletti con collegi uninominali, quindi quello è la persona che riceve più voti vince, il resto dei parlamentari col sistema proporzionale, i seggi vengono assegnati in base alle percentuali, quindi di voti ottenuti dai partiti, non ci saranno le preferenze, i partiti presenteranno invece delle liste piccole bloccate, sono possibili le coalizioni, anzi vengono incoraggiate, la soglia di sbarramento per un partito per entrare in Parlamento è del 3%, per le coalizioni del 10%, e nasce questo accordo sulla legge elettorale da PD, Forza Italia, Alternativa Popolare, Lega e scontenta Movimento 5 Stelle, MDP e Sinistra Italiana. C'è un sondaggio, l'ultimo sondaggio, Barbara, di Index Research, dice che Rosatellum danneggia il PD e spinge la Lega, nel senso che alla domanda che è stata fatta a varie persone, se ieri si fossero tenute le elezioni politiche, lei per quale partito avrebbe più probabilmente votato? PD al 25,4%, Salvini al 15,6%, il Centrodestra Unito al 36,5%, Movimento 5 Stelle, primo partito, al 27,1%. Quindi a crescere soprattutto la Lega Nord, che arriva al record del 15,6%, Forza Italia al 14%, Fratelli d'Italia al 5%, e evidentemente il PD, secondo questo sondaggio, ci avrebbe un po' rimesso con questa, o la modalità o la legge stessa, Rosatellum, che dici? Ma dico che come al solito le leggi elettorali sarebbe l'ennesima conferma per cui chi si è fatto promotore di una legge elettorale, e il Rosatellum è una legge proposta dal PD, non fosse altro per il nome che porta, visto che Ettore Rosato è il capogruppo del Partito Democratico alla Camera dei Deputati, e quindi sarebbe la conferma di una regola, ovvero qual è la regola? Che chi cambia la legge elettorale poi ci rimane sotto, cioè viene in realtà è un boomerang. Successe con il Mattarellum, ricordate, il Mattarellum arriva alla vigilia del 94, si inseriscono i collegi, non ci sono più le preferenze che erano state abolite per referendum con una larghissima maggioranza da parte degli italiani. E però a vincere Silvio Berlusconi, allora ricordate lo scontro con Occhetto, vinse Silvio Berlusconi. Poi arriviamo al Porcellum, il Porcellum viene cambiato dal centrodestra, in realtà a vincere con il Porcellum è il centrosinistra di Prodi. Alla fine adesso abbiamo il Rosatellum e vedremo se la regola, diciamo che non c'è due senza tre, e quindi probabilmente anche in questo caso la regola sarà rispettata. Barbara, per chiudere, mi aggancio a questo messaggio di questo ascoltatore, ascoltatrice, dice: questa storia di prendere i figli a scuola a 14 anni è assurda, io già negli anni 70 tornavo a casa con gli amici senza bisogno del bambino e della mammina. Beh, tutti, no? Tornavamo a casa, andavamo, facevamo, anche se dopo le polemiche, in particolare poi rinfocolate ieri dalla dichiarazione della ministra Fedeli, ne abbiamo parlato anche molto qui a Effetto Notte, il PD Renzi ha deciso cambiamo la legge, c'è un po', insomma, dell'assurdità in questa rigidità, perché ci sono problemi anche per genitori che lavorano, nonni che magari sono lontani o purtroppo non ci sono più. Cosa ne pensi in breve? Sì. Beh, io penso che questo è un paese ben strano, cioè il paese dove parlo di Roma, ad esempio, dove ci sono le buche, si diminuisce la velocità al punto che è assurda, ad esempio. E così si fa per questa per la storia della scuola. Per evitare responsabilità, la legge che cosa prescrive? Prescrive che il ragazzo, fino appunto all'età sotto i 14 anni, deve essere lasciato dalla scuola ad un adulto, a un genitore o una persona delegata a prendere il ragazzo. Ora sappiamo tutti, appunto tu ricordavi quello che diceva l'ascoltatrice, ma ciascuno di noi che ha figli o è andato a scuola sa bene che a 13 anni, a 12 anni, ma anche prima, solitamente si torna a scuola da soli. Adesso interverremo nuovamente, serve un provvedimento legislativo, perché i presidi ovviamente rispetto a una decisione, a una posizione netta da parte della Corte di Cassazione su questa vicenda, ricordiamo che tutto nasce appunto dall'interpretazione che ha dato la Corte di Cassazione praticamente condannando il preside e l'insegnante di una scuola proprio perché un ragazzo di 13 anni non era stato lasciato ai genitori e era finito sotto il pulmino sotto lo scuola bus, sì. Quindi nasce da questo evento. E ovviamente un preside che cosa deve dire oggi? Deve dire no, io rispetto la legge, perché il rischio che corre è certamente molto alto e quindi bisogna intervenire con una legge. Sono i paradossi dell'Italia, cioè noi facciamo tutte le cose con le leggi, ma forse il buon senso ogni tanto, ecco, renderebbe sarebbe tutto male, certo. Grazie Barbara Fiammeri, buon fine settimana. Ciao cara Barbara. Grazie a voi, buonasera. Ciao. I vostri messaggi ancora sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666, dice questo ascoltatore, sull'accompagnare i minori a scuola, i nonni non è che non ci sono più, è che sono ancora a lavorare pure i bisnonni, ecco un po' di ironia anche su questo. Ci sentiamo proprio a momenti. La natura di prima mano. Vi presento. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, lo sapete, siete al posto giusto, nel momento giusto, e con voi Roberta Giordano. E proseguiamo quindi con le tante notizie e le cose da raccontare. Abbiamo parlato molto della politica italiana, delle cose che sono successe in questi ultimi due giorni. Adesso però ci rivolgiamo invece a uno Stato, la Spagna, dove è successo ben di più, qualcosa di molto più grande, uno strappo, una svolta storica, ma anche diciamo una rottura che vediamo che direzione prenderà. Insomma, sicuramente non è una bella situazione. Vi ricordo molto velocemente quali sono i fatti principali della giornata, che sono per l'appunto questo della crisi spagnola, con le conseguenze che ci sono state oggi, l'indipendenza catalana e la reazione del governo di Madrid, e poi per la politica italiana la conferma del governatore Visco di Banca Italia con l'assenza oggi al Consiglio dei Ministri per la ratifica di questa conferma dei ministri renziani. Poi l'addio di Grasso al PD, come l'ha motivato? L'addio è stato ieri, ma oggi ha detto che la fiducia sulla legge elettorale è stata una violenza, non mi riconosco più nel PD, ha detto. E poi gli incendi in Piemonte, la violenza sessuale a Ravenna, questa terribile, su questa ragazzina di 18 anni, e poi la sentenza per il sieropositivo Talluto, Valentino Talluto, trentenne, che ha infettato con l'HIV più di una trentina di donne, e anche da una di queste è nato un bambino gravemente malato, è stato condannato a 24 anni. La risoluzione della dichiarazione dels i les representants del Parlament queda aprovada per 70 vots a favor, 10 en contra i 2 vots en blanc. Allora, avete sentito la proclamazione dell'indipendenza della Catalogna? Questo è l'inno cantato dai parlamentari catalani, e questo diciamo è l'epilogo che ha avuto almeno sinora la crisi spagnola, no? Dopo settimane di alta tensione, dopo il referendum del 1 ottobre in Catalogna per l'indipendenza da Madrid, dopo il diciamo fortemente osteggiato fu questo referendum il 1 ottobre da Madrid, dalla polizia, eccetera, reciproche minacce, tentativi di mediazioni, temporeggiamenti. Oggi appunto la maggioranza indipendentista del Parlamento catalano ha proclamato l'indipendenza, ha avviato le procedure per questa repubblica, stato indipendente e sovrano. Però immediata è stata la reazione del governo centrale, con il primo ministro spagnolo Rajoy che, ve l'ho detto, ha annunciato di voler destituire il presidente catalano Puigdemont, lo stesso Parlamento catalano, che sapete ha un suo governo, un suo Parlamento, una sua autonomia, e di indire nuove elezioni per il prossimo 21 dicembre. Saluto su questo tema Pier Giorgio Sandri, che è giornalista del giornale di Barcellona La Vanguardia. Buonasera Pier Giorgio. Buonasera a voi. E poi c'è Matteo Villa, analista dell'ISPI per l'area Europa, l'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Matteo Villa, buonasera. Buonasera Roberto, buonasera ai tuoi ascoltatori. Pier Giorgio, che clima c'è adesso? Quindi dall'allegria di oggi, l'esplosione di gioia che c'è stata, manifestazioni in piazza, festeggiamenti, adesso che cosa sta succedendo lì a Barcellona, Pier Giorgio? Ma innanzitutto bisogna aggiungere che oltre alle manifestazioni di gioia c'è stata anche un'altra manifestazione, sebbene di minore entità, degli unionisti o diciamo di quelli che vogliono rimanere in Spagna. Quindi diciamo una parte della città festeggiava, ma l'altra parte non festeggiava tanto quando è stato annunciato lo strappo. Adesso la situazione è il colpo di effetto che in un certo senso ha fatto Rajoy, che ha deciso di convocare elezioni, così come gli aveva chiesto in realtà gran parte della società civile a Puigdemont. Quindi in un certo senso lui ha fatto quello che Puigdemont, molta gente gli aveva chiesto di fare e lui si era rifiutato di fare. Quindi in un certo senso adesso la partita di scacchi continua, però l'aspetto anche più importante da segnalare è che essendo stato destituito il governo regionale, a partire da lunedì ci possono essere procedimenti criminali in corso, perché anche l'immunità l'hanno perso. Perché quindi Puigdemont potrebbe essere incarcerato, arrestato, Pier Giorgio? Sì, è una possibilità che non si deve assolutamente scartare, e non solo Puigdemont, anche la presidente del Parlamento, e anche corrono sei rischi il capo della polizia catalana, che è stato destituito anche lui. Quindi insomma diciamo una cosa è la politica che adesso rientra in gioco con queste elezioni, e un'altra cosa è la via giuridica o processuale che va per i suoi ritmi e che potrebbe portare ad altre sorprese in un certo senso. Fermiamoci proprio molto brevemente, perché così aggiorniamo chi invece si sta muovendo, e ritorniamo su questo tema così importante. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Siamo sempre con Pier Giorgio Sandri in collegamento da Barcellona, che è giornalista del giornale L'Avanguardia, e Matteo Villa, analista dell'ISPI. Pier Giorgio, allora tu spiegavi le due strade, quella politica, quindi con le elezioni annunciate da Rajoy per la Catalogna il prossimo 21 dicembre, e invece quella, la direzione giuridica, perché dicevi che lo stesso Puigdemont, presidente catalano, destituito da Rajoy, potrebbe anche essere arrestato intorno a lunedì. Senti, Puigdemont ha detto, quando ha dichiarato indipendenza, ha raccomandato ai catalani di mantenere sempre la pace, di essere pacifici. Pensi che questa situazione si manterrà, o se fosse arrestato potrebbe succedere qualcosa? Io desidero che si mantenga, ma io ho seri dubbi che se ci fossero arresti di questi personaggi importanti, l'ordine pubblico è la vera incognita e la scommessa un po' da mantenere. Per questo anche la decisione di Rajoy di accelerare il prima possibile le elezioni, e per cercare di ridurre questo tempo di incertezza nel quale non bisogna escludere che ci siano disordini. Anche qui bisogna comunque fare una premessa, che quando diciamo la Catalogna ha proclamato l'indipendenza, forse dovremmo ricordare anche agli ascoltatori che la metà della Catalogna, in un certo senso, perché ricordiamo, allora, sono 135 seggi e è stata approvata con 70 voti, quindi solo due in più della maggioranza. Perché quindi la politica, si sta dicendo, è spaccata anche in Catalogna, è spaccata in due sull'indipendenza. Assolutamente, è quello che cercavo di dire. In realtà questa maggioranza di seggi risicata, che ha approvato l'indipendenza, tra l'altro saltandosi evidentemente la legge in vigore, non è rappresentata dalla maggioranza di voti, perché durante le elezioni di due anni fa, in seguito a effetti della legge elettorale, avendo la minoranza di voti, gli indipendentisti hanno ottenuto una maggioranza risicata dei seggi che hanno fatto valere per fare questa dichiarazione. Quindi il paese è spaccato in due, questa è una cosa importante da ricordare. Certo, molto importante, una situazione molto, molto particolare. Matteo Villa, l'Unione Europea si è subito in coro schierata dalla parte di Madrid e anche gli Stati Uniti. L'Unione Europea continua a dire, l'aveva detto anche insomma nelle settimane scorse, quando anche Puigdemont forse cercava una mediazione, hanno sempre detto, a partire da Juncker, presidente della Commissione Europea, che loro sono per la Spagna unita. Sì, c'è da dire che non può fare altro, nel senso che l'Unione Europea è fatta degli stati che la compongono, e se poi ci si trova a schierarsi, per forza ci si schiera da parte degli stati membri. Però devo dire che la situazione è complessa in Spagna, e se posso tornare un secondo sulla composizione parlamentare, la cosa interessante è che è vero che Rajoy ha convocato rapidamente elezioni, probabilmente per evitare disordini e prolungamento dell'incertezza. Però se andiamo a vedere gli ultimi sondaggi, ovviamente non sono stati fatti ancora, diciamo, nel post convocazione elettorale, però di qualche giorno fa, davano praticamente una situazione identica a quella dell'anno scorso, cioè una maggioranza risicata degli indipendentisti nonostante tutto quello che è successo, quindi quasi una fotografia invariata, e quindi una situazione che quasi si potrebbe riproporre identica dopo il 21 dicembre. Quindi insomma Effettivamente è vero, l'Europa non si è mossa dall'una all'altra parte cercando di mediare, però di fatto è una situazione che dovrà essere portata più in alto, appunto verso l'Europa o verso qualche altro mediatore terzo, perché è possibile che si riproponga uguale, quasi identica a dicembre. Sei d'accordo, Pier Giorgio Sandri? Aggiungere anche che ci sono due interrogativi grossi, cioè sì. I partiti indipendentisti accetteranno di concorrere a delle elezioni convocate dal governo centrale, che non sono state convocate da loro? Perché c'era stato qualche settimana fa anche gli estremisti della CUP, loro avevano già fatto capire che nel caso il governo di Madrid avesse convocato elezioni loro non avrebbero partecipato perché non lo riconoscevano. E aggiungo un secondo interrogante. Se il governo spagnolo decidesse di fare come nel Paese Vasco, di legalizzare qualche partito, il quadro cambierebbe anche radicalmente. Quindi ci sono molte cose da risolvere, quindi non è detto che la foto sia la stessa, forse sì, forse no, e poi bisogna vedere anche come è stato digerito dagli elettori queste ultime settimane, e questo nessuno lo sa. Quindi non ci resta, Matteo Villa, di vedere nei prossimi giorni, lunedì, cosa succederà, sperando che appunto l'ordine pubblico sia il più possibile conservato, salvaguardato, e chissà che appunto non ci possa essere, finora dicevi l'Unione Europea non poteva fare altro, ma che non trovi la possibilità di un margine di mediazione, no, per evitare il peggio. E poi hai ragione, Sandrino, veramente è difficile capire cosa succederà da lunedì, perché ci sono tante variabili in gioco. Vi faccio soltanto notare che la cosa strana è che i mercati reagiscono in maniera del tutto calma, ed è molto interessante questo. Non so se poi magari appunto a volte non ci azzeccano, non ci stiamo azzeccando lo stesso, però la cosa interessante è proprio quello che guardiamo di solito per guardare la stabilità politica, misurare la stabilità politica in un paese, cioè gli spread, no? In realtà in Spagna sono più bassi rispetto a quelli italiani, e nonostante una situazione di incertezza così alta. Quindi insomma, chi lo sa, magari i mercati ci azzeccano e noi stiamo facendo castellinaria, però effettivamente l'incertezza è altissima e lunedì vediamo cosa succede. Grazie allora Matteo Villa dell'ISPI e Pier Giorgio Sandri dell'Avanguardia. Grazie, buon lavoro e buona serata. Grazie a tutti voi, e due. Grazie, ciao. Invece, per rimanere sulle cose nostrane, io chiederei al nostro Paolo Corazzon di Trebimeteo, caro Paolo. Buonasera Roberto, buonasera a tutti. Portatore sano di sole, anche se lui un pinguino vorrebbe il freddo, io invece continuo a voler sentire che si estende quest'estate infinita, come dice anche Cristiano da Gallipoli, sì, che ci saluta, dice che lì è estate, il mare, tutto fantastico, insomma. È vero, beh, si mantiene l'inquinamento fino a un certo punto. Non solo il problema dell'inquinamento, ma proprio la mancanza d'acqua. Ci sono zone dell'Italia nelle quali in questo 2017 ha piovuto pochissimo, la Sardegna, le regioni di nord-ovest, situazioni anche critiche in alcuni casi. Beh, il fatto sta che ancora nulla cambia, avremo un fine settimana con tempo nel complesso bello, solo un po' di vento che almeno aiuta a non far salire l'inquinamento, però acqua nulla, e credo che dovremo aspettare il 5-6 di novembre perché la propria circolazione atmosferica cambia e finalmente le perturbazioni tornano sull'Italia. Quindi per questo weekend, anche per la prossima settimana con la festa di Ogni Santi, in realtà la situazione resta più che tranquilla, fin troppo. Ecco. Grazie Paolo Corazzon, buon tempo a te comunque sia, ricordati domani notte di spostare l'ora, l'orologio indietro di 60 minuti. Si dorme un'ora in più. Si dorme un'ora in più, però okay. Il buio, a te piace il buio magari, a te piace il freddo e magari pure il buio, di un po'. No, non te lo dico, solo non mi chiami più poi. Vabbè, me lo dici poi in segreto. Grazie Paolo Corazzon, comunque sia. Buon tempo. Grazie, ciao Paolo, e ci riaggiorniamo brevemente alle 22.